Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il fenomeno è serio e piuttosto fastidioso. Si chiama fabbing, un uso compulsivo e antisociale dello smartphone. Esistono veri e propri tossici del cellulare che si isolano dal mondo. Un'abitudine che non risparmia nessuno, dagli adolescenti ai professionisti, ai politici capaci di twittare e messaggiare persino durante i talk show. Il Galateo 2.0 parla chiaro. Nei momenti di convivialità sociale sarebbe opportuno lasciar perdere lo smartphone e concentrarsi sulla compagnia o quantomeno sulla buona creanza. Per gli esperti non è solo cattivo educazione, ma un fenomeno di involuzione sociale. Si rischia di creare una nuova progenie di tecnomisantropi iperconnessi, ma in realtà isolati in un microcosmo fatto di bit, blog, tweet e chat. Uno scenario inquietante al punto che sugli stessi social network compaiono gruppi di boicottaggio che invitano a riappropriarsi di cose genuine come una stretta di mano al posto di un like, una cena tra amici invece di un forum, un bacio vero al posto di digitare kiss e smack. Sembreremo meno figli del nostro tempo, ma saremo... Questa naturalmente è la moderna versione luddistica verso il fenomeno del fabbing di cui parlerò questa mattina. Fabbing, lo spiego, significa, è una, diciamo, una sintesi tra due parole, phone e snubbing, cioè snobbare con il telefono. Il fabber è colui che, invece che intrattenersi piacevolmente con le persone che accanto, si immerge nel proprio smartphone e si intrattiene molto più piacevolmente, dal suo punto di vista, con le persone che sono digitalmente collegate con la sua periferica emotiva, che è appunto il suo smartphone. Ora, la lettura tradizionale, questo sia un sistema di asocialità, come preferisci il contatto astratto e virtuale, fra virgolette, anche se il termine non è esatto, ma è entrato nell'uso comune, piuttosto che una stretta di mano e che un bacio. Ma in realtà chi fa fabbing non è che poi sia alieno a stringere mani, a baciare, a stringere persone. So che in quel momento per lui è preferibile, è più glamour, è più interessante, è più stimolante, è meno noioso intrattenersi con le tantissime persone che scorrono il suo schermo piuttosto che con la persona, con le persone che accanto. Quali sono i luoghi, i set di fabbing? Beh, a tavola innanzitutto, accanto al coltello, la forchetta e il cucchiaio, si appoggia allo smartphone, si appoggia in maniera cautelativa se qualcuno casomai ti chiamasse, ma nelle pause di conversazione o anche mentre tu parli ti accorgi che la persona che ti sta accanto, sulla quale magari tu stai appoggiando tutte le tue attese, le tue speranze, i tuoi desideri, le tue pulsioni, getta lo sguardo su quello schermo, la vedi sorridere, la vedi scorrere con la sua deliziosa manina su quel monitor e capisci che tu in quel momento non ci sei più, c'è qualcosa di più importante dall'altra parte. Ora, questa mattina vorremmo parlare appunto del fabbing, che avrete tutti subito e tutti praticherete, ma in una chiave diversa. Non voglio dire, Dio mio, dove andremo a finire? Dove finirà l'umanità? No, dico, se noi abbiamo la possibilità di scegliere fra una persona che sta davanti e ci appalla, ci annoia, non ci colma il nostro desiderio di relazione, è logico, se abbiamo una via di fuga la usiamo. La vedete così o per voi è diverso? 800 24 0024. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Abbiamo detto che oggi vorremmo parlare del fabbing. Avete un fabber fra le persone che voi frequentate? Siete voi un fabber? Cioè siete uno snobbatore al telefono? Già il termine snobbatore con il telefono ha un senso punitivo, dissacratorio del fatto che uno dovrebbe stare attento alla persona che è accanto. Ma provate a immaginare un attimo quanto possa essere noiosa o quanto possa una persona essere esigente di attenzione e quanto invece siano molto più leggeri, meno impegnativi i rapporti che si hanno semplicemente attraverso i nostri smartphone. Io la mia proposta vorrei fare questa mattina, analizziamo il fatto se forse noi, abituati come siamo al multitasking, cioè avere contemporaneamente rapporti, ma sì, se volete, super superficiali, basati su emoticon, su faccine, su cuoricini, su motteggi, su facezie, ma con un'infinità di altre persone che comunque riempiono il nostro desiderio di relazione. E quanto sia più impegnativo invece averci delle persone vicino che richiedono attenzione e che vogliono che ci si occupi di loro, che fanno dei discorsi che non sempre noi seguiamo, ma dobbiamo seguire, dobbiamo sforzarci comunque a modificare ciò che a noi farebbe piacere o fa star meglio, o perlomeno ci mantiene leggeri e spensierati con una relazione che è impegnativa. Può essere che noi, a forza di esserci abituati, addestrati ad avere relazioni su un piano di minore impegno attraverso il nostro smartphone, non reggiamo più la relazione concreta, reale. Insomma, noi dovremmo abituarci a essere meno pesanti, meno esigenti, a non pensare che le persone debbano vivere soltanto per prendersi a cuore la nostra esistenza. Se così fosse, probabilmente anche il fabbing diventerebbe un esercizio meno praticato. Insomma, se la persona davanti a voi scorre il suo smartphone, in quel momento voi la state annoiando. Lucia, buongiorno. Buongiorno. Bene, io volevo semplicemente fargli i complimenti perché in un sunto ha già detto quello che poi volevo ribadire e riprendere io. Vabbè, mica ha detto infatti, che noi siamo delle menti eccelse, può essere che entrambi abbiamo preso una cantonata, non lo so. Bravo, no, io parlo a mia volta di fabbing perché spesso capita, aspetti la chiamata del figlio, aspetti la chiamata urgente di sì, vabbè, adesso il figlio è l'ultimo. Bravissimo, ecco, però in tutto questo contesto riprendo sul fatto che ci sta un discorso di rispetto, di dignità umana, di questa socializzazione che appunto lei adesso ha ripreso, e io condivido in pieno il mezzo che è il telefonino, importantissimo, ci serve, è utile, però deve essere solo un mezzo in un determinato contesto, secondo il mio punto di vista. Ripeto, se c'è un medico a tavola, se c'è un lavoro urgente, ci può stare, ma la difficoltà che poi avviene, almeno quello io lo rivedo nei miei figli, in me stessa, è l'abitudine. Poi diventa un'abitudine, questa abitudine è normale come appunto a tavola anche in famiglia e non parlarsi perché c'è la televisione, qui appunto il telefonino. Però Lucia, scusa, c'è un piccolo fraintendimento di base, diciamo esattamente il contrario noi. No, scusa, non perché tu dici sì, che in realtà è un fatto di cattiva educazione, andrebbe spento il telefono, a meno che non sia un medico, un sacerdote in esercizio. Io sto dicendo solo per capirci bene, che le posizioni siano chiare, e capisco la tua posizione, cioè, il telefono è giusto, è una cosa che non ti voglio impedire, ma quando stai con me devi guardare me, vivere con me, vivere una vita concreta e non uscire. Io dico invece, guardo un pochino avanti, dico, ma non sarà che noi ci siamo così abituati alla leggerezza e al poco impegno dei rapporti che abbiamo tramite il telefono, che sono divertentissimi, mentre sì, parlo con te, c'ho infinità di persone che mandano messaggini, mandano cuoricini, mi mandano piccole cose, cioè nel senso che mi diverte di più con la mano sinistra scorro e rispondo a questi, e con la mente e con la voce parlo con te. Ecco, non sarà che noi entriamo in una nuova fase per cui l'essere umano addestrato alle relazioni digitali pretenda dagli altri esseri umani meno voracità emotiva? Mi ricordo che a casa si diceva la famiglia, la tavola, bisogna stare per forza a tavola, non è un albergo, tutti attenti, finché non si alza papà non vi alzate anche voi, a tavola si discute ma non si urla, tutte queste cose, si tengono le mani sul piatto, tutte cose giuste. Era un'etichetta però per noi pesante da sopportare, non vediamo l'ora di scappare, e che oggi non accettiamo più la pesantezza degli esseri umani, che ci dicono devi ascoltarmi, ci dicono cose noiosissime, mentre una volta le avremmo ascoltati per buona educazione, oggi non siamo più così propensi a essere educati ad ascoltarli. Questa è una mia ipotesi, non dico sia giusta, dico che probabilmente sarebbe meno fabbing se ci fosse meno esigenza di una sorta di dipendenza emotiva dalle persone che abbiamo attorno. Giuseppe, sentiamo che dice Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Pronto? Sì. Pronto? Sì, mi sente? Come no, benissimo. Ok, perfetto. Allora, secondo me... Spenga la radio però, Giuseppe, così la sentiamo meglio tutti. Sì, aspetti che passo su. Bene? Ecco, perfetto, adesso va meglio, sì. Ok, secondo me i punti focali sono due. Uno, tanto per essere sintetici, si chiama maleducazione pura e semplice. Vabbè, cioè, non esiste che io sto al ristorante con la forchetta, il coltello, il telefonino. Per me uno che fa queste cose è un coatto, punto e basta. Vabbè. L'altra cosa è quella che io... È un punto di vista drastico il suo. Io non sono del tutto d'accordo, drastico, perché conosco persone non coatte che lo facciano, lo fanno comunque. Comunque va bene, lei dice che è un coatto, va bene. Sì. Escludiamo il medico del 118 o altre cose. Sì, vabbè, sarà uno su un milione il medico del 118 deve avere il telefono acceso mentre mangia. Adesso facciamo i casi estremi. Appunto, cioè se io sto a cena con lei avrò piacere di stare a cena con lei, se no magari vado a cena con un'altra persona. Quindi, ma lei non fa fabbing se va a cena con me, perché non ci siamo mai visti, avremo un sacco cose da dirci. Il fabbing avviene in ambienti familiari e relazionali, cioè se io esco la decima volta con una mia fidanzata o lei esce la centesima volta con un suo parente, alla fine non ne possiamo più, anche se è una persona cara, non ne possiamo più di stare a sentire o di parlare così, e ci capita di distrarci. Magari è un segnale che quel tipo di rapporto ci sta un po' saturando. In famiglia, esatto. In famiglia, a tavola tutti tengono il telefono sul tavolo, moglie, marito, figli, nipoti. Perché? Perché a tavola alla fine non è che si abbia poi tanto da dirsi, è più interessante capire cosa succede nel mondo. Ecco, la mia idea, che può essere sballata, è che piuttosto che imporre delle regole di buona educazione, la buona educazione è un criterio che cambia con i tempi e cambia con le latitudini, esistono popolazioni per cui ruttare a tavola è un segno di gradimento del cibo, quindi noi rutto a tavola non lo faremmo mai normalmente, quindi è tutto relativo, non c'è un termine assoluto scritto con lettere di fuoco su ciò che sia la buona educazione. Io penso che oggi, invece che interpretarlo come un segnale di disprezzo verso di noi, interpretiamolo come un disagio, che noi siamo noiosi, noi annoiamo, noi non creiamo interesse nella persona che fa fabbing, e noi stessi, quando ci troviamo nella tentazione di guardare il telefono piuttosto che dare attenzione alla persona che abbiamo accanto, vuol dire che in quel momento non è poi così importante per noi l'esistenza di quella persona, può accadere, basta prenderne atto. Deborah, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io per è Deborah con l'H, sì, penso, no? Sì, con l'H. Allora, Deborah, buongiorno. Buongiorno. Per quanto riguarda l'argomento da quale si sta trattando, il stabbing, per quanto riguarda due persone adulte, sono completamente contraria, perché penso che non c'è la comunicazione. Parlando di una coppia... Ma se non c'è, non c'è. Che si vuol fare? Non la puoi incollare con l'attaccatutto? Sì, ci esco con lei, Deborah, e lei comincia a guardare il telefono, dirò: guarda, io questa ragazza non la sto interessando, ahimè ho fallito nel mio intento di fare una breccia nella sua attenzione, ne prendo atto, è come se ci fosse una cartina al tornasole di una relazione, di un rapporto, no? Ma non penso che se ne accorga di questa cosa, che non prova interesse, che la persona che è accanto a lei non le dà soddisfazione, non le dà un piacere comunicativo in quel momento. Cioè, questa è una cosa che lei anticipatamente già la può percepire, per quello quando si arriva il momento che sei in ristorante e ognuno guarda il suo telefonino, nel mio caso trovo che sia la situazione più triste e più brutta, perché non si ha neanche il piacere di condividere un pasto in armonia, con comunicazioni anche leggera, piacevole, senza dover essere... Ma Deborah, ma uno non ne può prendere atto del fatto che questa persona evidentemente non c'aveva nessuna voglia di uscire con me, non c'ha nessuna voglia di stare con me, meglio saperlo piuttosto che vivere nell'illusione che lei finge di interessarsi, mi guarda con lo sguardo profondo, in realtà pensa ai fatti suoi. Diciamo, è come una sorta di trasparenza, io vedo in maniera trasparente questa persona preferiva starsene per conto suo e quindi guarda il telefono, ne prendo atto, mi addoloro, mi taglio le vene, vado dallo psichiatra, però almeno lo so. Non è forse meglio saperlo piuttosto che illudersi? È meglio sempre piuttosto sapere le cose che illudersi, però penso che si possa dire in un altro modo, no? Con questo attisamento di concentrazione su un telefonino, non guardare l'altra persona e fare capire che sei annoiato e che non ti ha piacere di stare lì, perché tante volte penso che sia molto più frustrante questo gesto che una parola detta direttamente: guarda, non esco con te perché purtroppo non mi trovo bene. Penso che la comunicazione sia importante. Però Deborah, lei sta toccando proprio il punto, lo toccare io. Noi ci stiamo rendendo conto che abbiamo messo su una nuova convenzione in maniera ipocrita, fingendo che sia normale, naturale, o dire che questa è cattiva educazione. In realtà, ancora una volta, abbiamo manifestato attraverso un'interfaccia elettronica una nostra condizione umana. Noi ci stiamo scocciando della gente che abbiamo attorno e quindi il telefono ci permette di dare un senso a questo nostro scocciarsi. Fermiamoci un istante, proprio sto andando oltre il tempo massimo, diamo la linea all'informazione della borsa e riprendiamo, visto che il dibattito mi sembra molto interessante. 800 24 00 24. Siete convinti che il fabbing ci insegni a capire quanto una persona veramente abbia voglia in quel momento di star con noi? Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 0024, ci stiamo appassionando nella definizione del fabbing. Il fabbing è un fenomeno per cui le persone preferiscono guardare il proprio smartphone in occasioni conviviali, a tavola, in famiglia, ma lo fanno anche nei luoghi pubblici, piuttosto che dare attenzione alle persone che hanno accanto. Esistono due tesi, ci sono importanti studi, università, centri di ricerca hanno fatto anche recentemente uno studio, un'università americana importantissima, per definire le ragioni per cui una persona entra in questo motivo, dice, in questo tipo di trip, probabilmente ha dei problemi riguardo alla propria sicurezza, è dipendente da internet. L'università di Kent ha fatto quest'ultimo studio su un campione anche abbastanza consistente, poi 200 persone alla fine dicono fino a un certo punto. Beh, alla fine però io sono dell'idea che in realtà l'umanità si sta evolvendo attraverso i propri strumenti tecnologici e sta capendo che in fondo per noi è molto più gratificante occuparsi di persone che non ci richiedono un grande stress emotivo, piuttosto che stare con una persona con cui si è usciti, si sta assieme, si sta accanto, ma della quale in quel momento non ci va proprio di dargli tanto della nostra attenzione. Qualcuno mi obietta, ma allora nessuno ti obbliga a uscire con quelle persone? No, il mondo mi obbliga a star con persone con cui non mi va di stare, dalla mattina quando mi alzo alla sera quando vado a letto, se no non saremmo animali sociali. È che oggi stiamo probabilmente sovrascrivendo anche la nostra socialità. Questo può essere una lezione a tutti noi per essere meno esigenti, meno vampiri rispetto agli altri e capire anche le esigenze degli altri. Mio punto di vista opinabilissimo. Andrea, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, la seguo da sempre, però prima di parlarle devo finire di mettere un like e mandare una faccina e controllare WhatsApp e Facebook e quant'altro. Faccio pure tranquillamente. Sì, non può aspettarmi cortesemente. Sì, sì, allora intanto 30 secondi. Allora parlo con Angelo. Angelo. No, sono qui. Ah, sono qui. Dicevo, secondo me questi social sono una droga, sono veramente, siamo dipendenti, tossici da social, perché li usiamo in maniera incontrollata. Io guardo Facebook anche quando sono ancora assieme a persone che amo e con cui sto assieme, ci guardo mentre guido. Ma anche l'amore ha dei momenti di pausa. No, allora facciamo che siamo nel momento in cui non c'è pausa, ci guardi lo stesso. Secondo me è una dipendenza. Solo che una volta, se stavi in mezzo a persone, come dire, di cui non ti interessava niente, fantasticavi, ti cantavi la canzoncina preferita e nessuno se ne accorgeva. Ora ti sgamano perché prendi il telefono in mano. Vedi, Domi ha ragione. È la cartina al tornasole delle lacune delle nostre relazioni. In un caso, ma contemporaneamente è anche una dipendenza, secondo me. Siamo la prima dose inizia a 10 anni col primo telefonino e ce la portiamo avanti. Niente me. Gratis. Come provocazione ho iniziato, visto che di mestiere faccio spettacoli, e la gente guarda Facebook durante lo spettacolo, ora facciamo finta che sia interessante, non lo facciano perché no, noi vediamo dal palco le facce blu della gente mentre recitiamo. Questo penso sia molto fastidioso, perché dici paghi il biglietto, almeno dammi attenzione, è giusto. È assolutamente, e allora io ho iniziato ogni tanto a tirare fuori il telefono dalla tasca, visto che già prima lo facevo nelle pause per, a livello di dipendenza, controllare Facebook mentre ho 10 minuti di cambio abito, e giuro, lo faccio, e adesso ci guardo in scena. Chiaramente in strutture di spettacolo che mi permettono di farlo, però è buffo vedere come la gente dice scusate un attimo, mi è arrivato un messaggio e non capiscono. Però Andrea, io capisco per un artista quanto possa essere fastidioso vedere la disattenzione in platea, però perlomeno adesso ha l'esatta cognizione di quanto quello che lei fa sul palco riesca a trascinare le persone che hanno lì. Chiaro, sono maleducati, anche stupidi, paghi un biglietto, se t'annoi vattene, non lo so, ci stai a fare lì. Però capisco che se il richiamo del telefono è più forte di quello che accade sul palco, e questo accade anche al cinema, trovo ridicolo, uno va al cinema e vedere le facce blu al cinema. Ridicolo, ma evidentemente il film non gli interessa tanto quanto quei fili che hanno lasciato interrotti per entrando nel cinema. Quindi c'è sempre un amico, un figlio, un nipote, una questione di lavoro, un amante, una moglie, un marito, un nonno, una nonna, un gatto, un cane, non so bene che in quel momento ci lascia sospeso rispetto alla sua sorte. L'esito del multitasking è proprio questo: la nostra emotività, che poteva in qualche maniera essere assorbita da alcune circostanze limitate, diventa presente illimitata, ma in realtà le persone che ci stanno attorno vogliono un'attenzione circoscritta, non illimitata, e da qua nasce il problema. Angelo, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio signor Nicoletti. E di che? Dunque, Io quando vado a mangiare, perché sono spesso fuori a mangiare, che faccio l'agente di commercio, lascio sempre il telefono in macchina, quell'orario qui, 40 minuti, e se porto un cliente gli dico sempre, scusa per cortesia, spegni il telefono. Questi 40 minuti sono dedicati fra me e te. Non è alquanto di queste cose, il quanto è che ci sono persone nel ristorante, proprio in Città Alta, che è un posto anche abbastanza noto, persone che continuano a fare blin blon, arrivano questi messaggini. Venerdì, no, quello è un altro problema, signora... però Rosano, quello è maleducazione digitale. Il telefono va tenuto silenziato, quello sì, quello è minimo. Ecco, io, ma venerdì una signora continuava e rideva, io sono andato alla casa, senta signora, io sono qua 40 minuti a mangiare, gli dico per favore, metta il silenziatore... O se no io prendo il suo telefono, io lo butto per terra e poi lo compro. Ma no, ma potrebbe mettere il vibratore la signora. Non lo metteva. Anche il titolare è andato là, ma lei se ne fregava altamente. Aveva una sorta, una sindrome di disturbo, nel senso basta silenziarlo il telefono. Sì, tanto ma purtroppo, a casa mia i miei nipoti quando vengono a mangiare, quei 40 minuti il cellulare è spento. Vabbè, lei impone una regola, lei giustamente difende il vecchio mondo e dice io lavoro col telefono, se a me non dovesse suonare il telefono quando sono in macchina non mangio, per dire, però il mio spazio di quei 40 minuti che sono a mangiare è per me, è lecito. E poi metto sempre il silenziatore, è rispettabilissimo la questione del silenziatore. Entriamo in un altro ambito, nella conoscenza dei minimi dettami dell'uso degli strumenti digitali. Il telefono deve star sempre silenziato, il telefono ci abbiamo sempre in mano, non c'è più bisogno che suoni. Sentire una suoneria di un telefono è una cosa totalmente arcaica, avvengelo sempre in mano, in tasca, basta che si illumina o vibra un pochino, siamo sempre collegati. Sentire ancora il rumore del messaggino di WhatsApp, dell'SMS che arriva, significa veramente appartenere a un'altra generazione, anche se è una generazione di pochi anni fa. Rossano, buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie della possibilità dell'intervento. Io volevo dire che non sono proprio d'accordo su quello che lei ha espresso. Io credo che sia... Io dico per confrontarmi, c'ho un'idea e mi ci confronto, non è che domani posso cambiare idea, questo è bello. Quello che volevo dire io è che io credo che sia una questione di semplicità, cioè noi tendenzialmente per natura cerchiamo le cose più facili, e siccome i rapporti interpersonali, quelli veri, hanno bisogno di impegno... Questo è il problema, è complessità, certo, è complessità. Esattamente. Il discorso soprattutto adattamento alle esigenze dell'altro, questo è chiaro. Solo che il problema qual è? Il problema che però ci rompe le palle, purtroppo è questo fatto. No, non è tanto quello. Io quello che credo è che sia dovuto al fatto che la semplicità, cioè avere la possibilità di avere qualcosa di molto più facile, ci allontani dallo sforzo che invece dovremmo fare per riuscire a stare con le persone. E questo non è una cosa positiva, perché dovremmo essere capaci, dal mio punto di vista, di passare sopra quello che è la semplicità che lo smartphone ci propone, ma darci la forza di affrontare quelle che sono le cose normali. Invece penso che in realtà la macchina ci dia una sorta di premonizione, di profezia su quello che stiamo diventando. Allora, noi tenderemo a semplificare le nostre relazioni per vivere meglio, immagino, non lo so, è ineluttabile, possiamo anche fare degli esercizi e forzarci a mantenere livelli di complessità, ma noi andremo sempre verso la via più facile perché si vive meglio, non lo so, questa è una mia idea, mi contraddica pure, non dico che è assoluta. Sì, assolutamente così, e un occhio esterno che vede la situazione potrebbe dire ok, la situazione in questo momento non è particolarmente favorevole all'interlocutore, stiamo annoiandolo, ok, ma nel momento in cui siamo noi coinvolti in questo e ci lasciamo andare alla cosa più semplicistica, cioè quella di prendere in mano un telefonino, ci porta a lungo termine ad isolarci, a cercare quello che è più semplice, e non sarà una cosa propositiva secondo chiaramente il mio punto di vista. Temo anch'io che sia questo, ma siccome analizzo anche in me questa tendenza, io se ho davanti una persona che mi riempie, mi mette curiosità, figuriamoci il telefono, ma può suonare anche con tutte le fanfare del mondo, ma non lo guardo mai. È come la teoria. Magari in quel momento sforzarci un attimino, entrare un pochino di più nel ragionamento della persona che abbiamo davanti, che magari sta dicendo una cosa lecito, con un po' di difficoltà, no? E potremmo diventare molto appassionati alla discussione, magari, invece di lasciarci andare al telefonino che ci svia e ci porta lontano dalla momento di difficoltà che bisogna passare nelle discussioni. Sacrosanto, ma io non faccio un giudizio di merito o in termini etici, osservo soltanto, da osservatore dico, guarda, ci stiamo rendendo conto che grazie o per colpa del nostro telefono stiamo scegliendo la via semplice nei rapporti. Scegliere via semplice vuol dire perdere molto della complessità, della profondità di un rapporto, ma si vedrà anche avere meno mal di fegato, meno stress nervoso, meno stati d'ansia, meno ansia di prestazione, insomma vivere meglio. E penso che l'umanità si evolva sempre nella direzione del cercare di vivere meglio. 800 24 00 24, non sono cinico, osservo soltanto, magari posso anche ricredermi. Ci sentiamo fra un istante. Melog, cronache meridiane. Mi stanno arrivando messaggi che mi domandano e cercano di provocarmi sul fabbing, sullo snobbare le persone concrete a favore dei contatti futili che abbiamo nel nostro smartphone, seduti al ristorante, al divano davanti al televisore o in una conversazione tra amici. C'è sempre il telefono in mano, qualcuno che smanetta, guarda, sorride e con la testa da un'altra parte. Mi dice il saggio Fabrizio Intonti, che è un profondo filosofo, dice sì, però il punto d'arrivo, se la tua teoria fosse esatta, diventeremo tutti dei bambini e giocheremo con le altre persone, avremo degli istanti di attenzione basata su cose del tutto futili e non ci sarà mai l'approfondimento di un rapporto. Può essere che l'umanità vada in questa direzione, non sono io il salvatore dell'umanità, osservo che molte volte si fugge da una gabbia emotiva, da un ricatto amoroso, guardando il telefono, o si è vittima di qualcuno che guarda il telefono. Tu ti chiedi, ma perché guarda il telefono? Sono qui per lei, ho ordinato il migliore champagne, mi sono messo la camicina fighetta, mi sono lavato, profumato e depilato, sono pronto, una macchina d'amore, e questa sta a guardare il telefono. Come mai? Caro, perché l'annoi? Perché nonostante tutto questo, in quel momento, ma magari cambia idea dopo, in quel momento tu la stai annoiando. Bisogna prenderne atto. Giovanni, buongiorno. Giovanni? Sì, mi sente? Sì, vada. Buongiorno. Niente, a me mi è successo, io sono separato, di fare conoscenza nelle varie ditte, faccio il camionista nelle varie ditte con cui vado, con una signora di 42 anni, 43 anni. Questa signora, anche lei, separata. Siete l'incastro perfetto. Ci diamo appuntamento. Usciamo la prima sera insieme. Con il camion? L'hai andata a prendere con il camion? No, con la macchina, niente camion, sabato e domenica. Vabbè, il camion è dotato di accessori che la macchina non ha. Vabbè. Sì, preferisco però andare a casa con quegli accessori, il camion tutta la settimana, parte avanti. Quindi l'aveva già programmato di portarsela a casa la signora? Avevo già programmato, insomma, una seratina simpatica. Questa signora insieme usciamo, dopo 20 minuti praticamente eravamo al ristorante, non mi aveva rivolto nemmeno la parola e stava lì a smanettare sul telefono. Io ho preso, mi sono alzato e me ne sono andato. Che dovevo fare? Dopo 15 minuti mi sento chiamare e mi fai: ma dove sei? Sei in bagno? E no, sono andato via. Dice: perché? Sei lì col telefono a smanettare, non mi hai rivolto nemmeno una parola. Ma sei uno stupido, dici, tu mi interessavi, come ti interessa e stai lì al telefono a smanettare? Ma devo rispondere agli amici, a questo e a quell'altro. Giovanni, adesso le posso dare un mio punto di vista. Lei ha agito d'impulso, la sua ipotesi era giusta, dice, se sta smanettando in questo momento non è attratta da me, ma se no sta semplicemente aggiustandosi il domani, aveva già nel progetto che gliel'avrebbe data quella sera sicuramente, quindi per lei era già scontato, quindi era inutile che perdesse tempo a intrattenersi piacevolmente con lei in facezie. La signora è molto più pratica, più razionale e più tecnologicamente avanzata rispetto a lei, dice, questo ormai è qua, è pronto, mo' mi faccio una mangiatina, beviamo mezza bottiglia, poi mi porto a casa e poi domani mi organizzo la mattinata, il weekend, l'aperitivo con gli amici. Lei ha agito da eroe di altri tempi, da romantico e disilluso, se n'è andato, ha fatto il beau geste, la signora non gliela darà più e gli altri amici che comunque l'avrà tenuti caldi probabilmente ne usufruiranno. Bisogna essere adeguati e avere il cinismo anche di gestire questi fenomeni della contemporaneità. Fabrizio. Salve. Allora, sono d'accordo con quello che stava dicendo sulla questione, no? In quanto è vero che se uno è veramente interessato non ascolta il cellulare, eccetera, eccetera. Però penso anche al fatto che la televisione era già qualcosa che permetteva le vie di fuga, no? E mi ricordo che noi bambini seguivamo la televisione spesso anche perché non c'era, almeno a me succedeva, non c'era dialogo in famiglia, per cui la televisione diventava un mezzo per riuscire ad evadere. Certo, evadere dal mutismo familiare, sì. Dal mutismo familiare, ma ancora oggi purtroppo, io lo vedo, io ho una bambina si fa per dire 12 anni, che ha fatto la prima media, e passa molto tempo con il cellulare e la televisione, pur facendo molto sport. Sì, però capisce che questo fenomeno che stai analizzando è più legato agli adulti. La fetta più interessante di dediti al fabbing sono gli adulti, non tanto gli adolescenti che hanno... Gli adulti che hanno già o relazioni consolidate o rapporti consolidati o socialità consolidata e via dicendo, comunque... inconsapevolmente, iniziando con delle scuse tipo devo avere il telefono acceso perché mi serve per lavoro, certo, è importante, cioè, noi poi ci raccontiamo tutti, io dico sempre, sai, io faccio il giornalista, ho bisogno di avere sempre il telefono sott'occhio, ma figuriamoci, ma chi mi calcola a me la sera dopo le 8 e mi chiama per lavoro, ma succederà una volta ogni 6 anni, sì, capito? Infatti. Però dico faccio perché in realtà mi rompo le palle e mi è metto a guardare. È assolutamente vero, la massa della gente che incontro è noiosa, per cui quella è una via di fuga che utilizzo anch'io, però spesso anche diciamoci, per lavoro no, bisogna dirlo, ma è vero, non c'è niente da fare, cioè lo smartphone serve a quello, non ci sono santi. Se io davanti a una persona interessante il cellulare può, perfetto, anche questo ho detto, il cellulare può anche esplodere con un sibilo atomico, non ce ne frega non niente, frega chiaro, niente, bravo Fabrizio, abbiamo capito. Francesco, buongiorno Francesco. Salve, buongiorno, un saluto a tutti. Chiamano tutti uomini, non vorrei fare però la trasmissione della solidarietà maschile, le donne si nascondono su questo, vabbè, Francesco. Chissà perché. Chissà perché, lo sappiamo perché abbiamo sgamato il fatto che in realtà il fabbing è una maniera esplicita per dirci quello che per benevolenza non hanno il coraggio di dirci, che noi siamo noiosi, è la verità. Infatti sì. Allora Francesco. No, la riflessione che mi veniva da fare era in particolare... in base alle reazioni del pubblico, che poi sono quelle che registro anche tra gli amici parlando di questo fenomeno, no? Per cui la maggior parte delle persone, quasi la totalità, è tutta sdegnosa e offesa da questo modo di utilizzare il telefono, però poi contraddittoriamente tutti lo utilizzano, cioè come dire, c'è una grande diffusività e contemporaneamente tutti quanti ne parlano male. Perché il telefono si presta benissimo come strumento del demonio, è l'attuale strumento del demonio. Angelo, buongiorno. Buongiorno. A 30 Nicoletti. Secondi, velocissimo. Allora, una lettura alternativa e provocatoria. L'utilizzo della nostra protesi tecnologica come una forma di onanismo digitale, cioè una masturbazione che grazie alla immediatezza e alla semplicità della gratificazione psicologica che mi dà, io faccio perché non trovo niente di meglio o trovo troppo complesso il rapporto completo. Va bene, ognuno ha le sue predilezioni. Lei trova che il fabbing in realtà è una sorta di autoerotismo perché non gli va di consumare il rapporto completo. Ognuno trova la completezza negli atti a lui più congeniali. Se la completezza la trova in questo atto autoerotico, non abbiamo nulla da obiettare. Alla prossima!